9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end. E anche oggi 13 dicembre, martedì, questo è l'inizio che confermo con i Doors, The End. Perché? Perché come avete capito e come da un certo punto di vista sono amaramente anche soddisfatto, perché vedo confermate le mie interpretazioni, i mercati iniziano a lavorare su un'analisi seria dell'euro accordo della notte dell'Immacolata. E ai mercati questo accordo sembra esattamente quello che vi abbiamo spiegato per il momento, cioè una clausola impropria dal punto di vista formale, perché abbandona il metodo comunitario a favore di quello intergovernativo, quindi è di difficile applicazione, e che comunque resta aperta al fatto che i debiti pubblici continueranno a ballare, perché solo con il morso dei mercati, il conto dei tedeschi è questo. I governi che non sono in regola con la virtù del bilancio pubblico, della finanza pubblica e con produttività nell'economia reale, capiranno che devono mettersi a correre, fare tutto quello che per anni non hanno fatto mentendo ai loro elettori. Il piccolo problema è che in questo lasso temporale il tasso di crescita dell'economia reale cade molto rapidamente, si sta deteriorando molto rapidamente, e il conto quindi viene presentato agli occupati che diventano disoccupati e a chi a questo punto perde reddito disponibile da destinare ai consumi, insomma alle fasce più basse della piramide sociale, del lavoro dipendente, dei tanti autonomi che si vedono non più pagati e che si vedono arrivare morse di stretta fiscale con le nuove manovre, che potrebbero non bastare. L'Istat non ci ha detto per il momento, sta prendendo tempo sull'aggiornamento dell'andamento dell'economia italiana, proprio perché si dice che l'economia italiana ha un segno negativo già adesso in questo ultimo trimestre, e naturalmente il segno di manovre progressivamente sempre più restrittive sarebbe quello di aggravare questa tendenza. La domanda diventa: quanto si può reggere in condizioni tali per cui la virtù troppo a lungo ritardata dalle decisioni dei governi mendaci diventa da adottare poi rapidamente, sì, ma senza riuscire ad evitare che la crescita diventi sempre più negativa, visto che poi ciò che si fa per la crescita viene ulteriormente rinviato. Io lo dico sempre: l'abbattimento del debito pubblico con mattone pubblico per 20-25 punti di PIL, e se ci mettiamo dentro anche la cessione delle municipalizzate, cioè i due punti che mancano nella manovra del governo Monti, quelli non avrebbero effetti restrittivi e rassicurerebbero i mercati. Non capisco perché manchino. Il riequilibrio del sistema fiscale con meno imposte sul lavoro e impresa e dell'incentivo fiscale con effetti a breve più rapidi di ripresa della crescita manca in questa manovra, e non riesco a capire perché manchi. Allora, prima di entrare nel merito degli emendamenti di cui si aspetta questa mattina la formalizzazione sui punti più delicati della manovra, cioè casa e pensioni, come sempre facciamo una rapida scorsa ai giornali europei per capire oggi sui maggiori quotidiani continentali come si elabora la giornata di ieri, che i mercati ha visto col segno meno dare il responso dell'euroaccordo che vi ho detto in sintesi. Ieri abbiamo avuto il Bot Day, e il titolo pubblico a 12 mesi italiani è stato collocato sia a un tasso del 5,95% sotto la soglia psicologica del 6%, però lo spread rispetto al Bund ha superato quota 480 punti come massimo di giornata, poi è risceso, stamattina siamo in rialzo verso quota 471. Allora, il Frankfurter Allgemeine Zeitung ha oggi diversi articoli in cui si fa il punto intorno al giudizio che la Commissione europea guidata da Barroso dà intorno all'euroaccordo dell'Immacolata, ed è un giudizio negativo, perché è sempre più evidente che per l'abbandono del metodo comunitario a favore di quello intergovernativo ogni accordo su sanzioni pressoché automatiche come quello stabilito nell'accordo dell'Immacolata in realtà può essere impugnato da paesi che facciano appello a quel punto al trattato che rimane in vigore rispetto agli accordi intergovernamentali, e quindi è molto in dubbio nel giudizio tecnico della Commissione europea che davvero sia credibile l'ipotesi del ricorso alle sanzioni nella Corte di Giustizia europea. In Francia oramai siamo in dibattito preelettorale per le elezioni dell'Eliseo e Le Monde ha un lungo articolo in cui si spiega come Nicolas Sarkozy, il presidente, stia in realtà preparando i francesi all'inevitabile perdita della tripla A sul rating dell'affidabilità del debito pubblico francese, e arriverà di sicuro la perdita del rating, avrà un grande impatto nel dibattito pubblico francese, e questo spiega perché, per esempio, Le Figaro dà ampio spazio, anzi, alle dichiarazioni di François Hollande, il candidato socialista contrapposto a Nicolas Sarkozy, e Hollande fa una dichiarazione che ci fa capire qual è la piega che in grandi paesi core dell'Europa prenderà l'accordo dell'Immacolata, perché che cosa dice Hollande? Se sarò eletto Presidente della Repubblica, rinegozierò l'accordo e chiederò che sia aggiunto ciò che manca sulla crescita. Quindi il candidato dell'opposizione francese già dice ai mercati: per me quell'accordo non vale niente. In più, questo lo prendo dall'Execo, Marine Le Pen, candidata presidenziale per il Front National, per la destra, dice senza dubbio che il problema non è nemmeno se valga o meno l'accordo, dice semplicemente che se dovesse vincere lei tornerebbe al franco e regalerebbe di nuovo ai francesi, dice, l'orgoglio della nostra valuta nazionale. A questo l'Execo aggiunge una valutazione dell'Istituto Montaigne, un think tank che stima in un suo studio che l'uscita dall'euro varrebbe più di 1 milione di posti di lavoro persi per la Francia. Però capita bene che se questo è il dibattito francese, i mercati non è che abbiano grandi stimoli a prendere troppo sul serio l'accordo dell'Immacolata. Nel frattempo in Grecia è evidente che verranno per l'ennesima volta non centrati gli obiettivi di deficit di bilancio, e il quotidiano Katemerini ci dice che siamo a un deficit che resta più vicino al 9% del PIL che all'8,5% promesso per l'ennesima volta, anche se però le stime degli economisti più severi e rigorosi dicono che il deficit resta intorno al 10%. E da questo punto di vista ovviamente l'effetto è quello della contrazione dell'economia greca, che rimane al meno 6% del PIL di quest'anno, e anche le migliori previsioni dicono che non si sale sotto meno 3% del PIL l'anno prossimo. Queste sono stime del Wall Street Journal di oggi. Capite bene che quindi con PIL in contrazioni così severe, gli obiettivi di rientro del debito sul PIL, potete fare tutte le manovre che volete, ma è come inseguire un coniglio più rapido di quello che potete essere voi. E questa è l'ombra del meccanismo un pochino auto-elusivo sugli obiettivi di rientro, quando la curva della crescita diventa anche per questo effetto troppo negativa. Anche il Belgio, questo è l'Essoir, lo prendo all'Essoir, anche il Belgio si sta avviando a chiudere con un deficit pubblico quest'anno parecchio significativamente maggiore dell'aspettato, perché siamo almeno al 4,2% del suo PIL. In Germania Spiegel ci dice che il capo dell'FDP, del Partito Liberale, Philipp Rösler, è sotto attacco al suo partito perché il referendum che aveva chiesto al suo partito sul meccanismo salva stati, l'ESM europeo, non partirà perché il suo stesso partito non ha cooperato abbastanza, insomma c'ha dei dubbi sulla sua leadership. E il problema è che nell'articolo in cui Spiegel Online spiega questa cosa troverete anche lì ampi settori della maggioranza in Germania che si interroga sull'efficacia dell'euroaccordo. Qual è il punto? Il punto si chiama Commerzbank, perché Commerzbank, dice Spiegel, è di nuovo in colloqui riservati con il governo tedesco per un nuovo aiuto pubblico. Commerzbank è già stato salvato nel post Lehman Brothers e c'ha ancora un 25% di capitale pubblico per effetto del salvataggio, però sta ancora messo male perché un suo veicolo Euroippo è pieno di carta pubblica europea, e la stima dell'EBA, dell'autorità bancaria europea, è quella che ha bisogno di nuovo di una solida iniezione di capitale, e iniezione di capitale non può che venirgli dallo Stato. Per cui, scrive Spiegel, può essere che di fronte alla necessità di un nuovo aiuto pubblico, vi avevamo detto la scorsa settimana che il governo tedesco non per caso ha rifinanziato la Sofin, lo strumento finanziario pubblico attraverso cui aveva salvato le banche tedesche nel post Steemel, quindi è evidente che il governo tedesco a propria volta immagina di doverlo fare nei confronti di Commerzbank, però questo fattore, ci dice Spiegel, potrebbe forse portare più avanti, entro un paio di mesi al massimo, il governo tedesco a cambiare idea rispetto al fatto che l'accordo dell'8 dicembre basti. Infine un approfondimento sul punto che ci riguarda, nel caso in cui dovessimo essere un paese che chiamato ad avere il ricorso straordinario del fondo monetario, per questo nell'euroaccordo si è deciso di dare altri 200 miliardi europei al fondo monetario. Il Giappone, dice Reuters, riportando dichiarazioni del ministro delle finanze giapponese Yu Nasumi, dice che non è per niente convinto di questo fatto che l'eurozona non prende provvedimenti propri e poi delega al fondo monetario eventuali interventi di emergenza, e dice che il Giappone non darebbe una mano a questa prospettiva. E il servizio della Reuters, che riporta le dichiarazioni del ministro delle finanze giapponese, aggiunge che il Giappone si ritiene sicuro che anche gli Stati Uniti, da questo punto di vista, rimangono assolutamente persuasi che sia un meccanismo barocco, perché l'Europa a questo punto dovrebbe fare di più in proprio. Con queste prospettive non stupitevi che i mercati continueranno a farci ballare. Veniamo al punto della giornata di oggi per la politica italiana, per la manovra invece del governo Monti. Casa e pensioni, avete capito che il governo ha dovuto prendere 24 ore in più per rimaneggiare il testo sui due pilastri fondamentali della sua manovra, appunto casa e pensioni. Ieri è stata una giornata fitta di lavoro per i relatori del decreto Salva Italia, che sono per Paolo Baretta del PD e Maurizio Leo del PDL. Entro fine mattinata si aspettano gli emendamenti più attesi, quelli sull'IMU, cioè la tassa sulle case, e sulle pensioni. Fitto lavoro con il ministro Elsa Fornero e con Piero Giarda. E di cosa si potrebbe trattare? Ci sono due ipotesi, dicono i quotidiani che sono usciti oggi malgrado, alcuni che sono usciti oggi malgrado lo sciopero. La prima ipotesi consisterebbe in una indicizzazione parziale dei trattamenti previdenziali compresi tra i 1.000 e i 1.400 euro. Ricordate che la soglia iniziale era di mantenere l'indicizzazione totale solo per le pensioni al minimo meno di 500 euro e mantenere al 500% per quelle il doppio, poco più di 900. Quindi prima ipotesi, invece, indicizzazione parziale, spostare da 900 euro fino a 1.400 euro e tenere quella totale fino al doppio della minima, 1.000 euro. E con una rivalutazione per gli assegni pari al triplo di quello minimo, cioè entro i 1.500 euro, che arriverebbe comunque al 50%. Poi c'è una seconda ipotesi invece, che è quella di garantire il pieno recupero dell'indicizzazione limitandone questa misura a 2,5 volte il minimo. Quindi in buona sostanza ci si fermerebbe a dare un pieno recupero agli assegni previdenziali pari a 1.200 euro. E poi c'è un'attesa anche per una specie di clausola di salvaguardia per i lavoratori delle classi 1951-52, che sarebbero le due coorti di lavoratori più direttamente impattate, interessate dalla eliminazione rapida delle pensioni di anzianità. Il secondo pilastro è quello invece con emendamenti che riguardano la reintroduzione dell'imposta sulla prima casa. Qui l'ipotesi sarebbe di aumentare la detrazione di 200 euro, quella prevista nella versione originale della manovra, incrementandola fino al doppio, 400 euro, legandola al reddito del nucleo familiare, calcolato però non attraverso la dichiarazione dei redditi ma attraverso l'ISEE, cioè la valutazione del reddito equivalente. Qui però il problema ancora irrisolto, almeno a ieri sera pare, è quello delle risorse, perché una cosa di questo genere potrebbe comportare aggravi di peggiori saldi fino a 5 miliardi di euro. E a questo punto, sommando tutte queste richieste, 5 miliardi bisogna vedere da quale altra parte di recrudescenza fiscale il governo e la Ragioneria Generale dello Stato riterrebbero di prenderlo, perché naturalmente si tratta di le ipotesi sono quelle di accrescere ulteriormente, per esempio, la tassazione dei dossier titoli e degli altri prodotti finanziari, quindi far rinspessire la mini patrimoniale, che però è una patrimoniale a tutti gli effetti su tutti gli strumenti finanziari e sui conti. inutile che io dica che se si protesta tanto per l'introduzione di misure come quelle prima casa non collegate al reddito e si spessisce la parte patrimoniale non collegata al reddito, è la classica dimostrazione di come poi una manovra priva di una visione equilibrata complessiva sul dare e l'avere finisca per avere i sindacati e chi rappresenta i lavoratori dipendenti da una parte chiedere il rispetto dell'equità e cioè che contino anche i redditi per fare i prelievi e dall'altra poi però per quello che riguarda gli strumenti finanziari adottare esattamente lo stesso criterio, come se il risparmio degli italiani dovesse in realtà valere meno del reddito dipendente dagli italiani. Io sapete che su questo non sono d'accordo, ma fine del quadro introduttivo. Allora iniziamo con gli ospiti della giornata. Avremo con noi intanto fin dall'inizio Fabio Pamolli, che è il presidente del CERM competitività regolazione mercati, che spesso sentiamo per le questioni previdenziali, che intanto saluto e ringrazio. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E poi ci seguiranno anche il resto della trasmissione Giuliano Cazzola, che è il vicepresidente Commissione Lavoro della Camera per il PD, e Tiziano Treu, che è vicepresidente della Commissione Lavoro Previdenza Sociale del Senato per il PD. Allora, Pamolli, qual è intanto la sua prima valutazione? L'impatto che queste misure di taglia e cuci, di modifica di questi due pilastri della manovra, soprattutto cominciamo dalla parte previdenziale, secondo lei che giudizio si sente in grado di formulare? Il giudizio che mi sento di formulare è quello che sarebbe opportuno, siamo ancora in tempo, accompagnare a queste misure che sono necessarie, che sono state presentate come sacrifici necessari, una riflessione che può essere presentata al Paese, specialmente da un governo che si presenta come governo di competenze e con un Premier che è stato uno dei promotori, dei fautori anche sui nostri quotidiani ormai oltre 12 anni fa dei principi dell'economia sociale e di mercato, ecco, di una visione complessiva su quale sistema di welfare stiamo cercando di costruire, su quale assetto di fiscalità stiamo cercando di costruire e su una divisione dei compiti tra i diversi istituti. Questa riflessione probabilmente è stata schiacciata dall'urgenza della manovra. Avrebbe un costo politico relativamente contenuto, ma mi parrebbe opportuna, perché altrimenti il rischio è quello di spingere tutti gli interventi che in realtà con alcuni aggiustamenti avrebbero potuto e potrebbero essere iscritti in una riflessione di quel tipo, e lo spiego tra un secondo se mi dà ancora un minuto, rischia di portarli su un terreno a questo punto di negoziazione tra le parti che finisce poi per scaricare su una componente oneri che l'altra in questo momento non se la sente di prendere. Da un lato c'è un problema interno alle generazioni. Noi abbiamo la necessità di chiarirci finalmente nel Paese, credo, quali istituti di welfare vogliamo finanziare attraverso la tassazione generale, quali istituti di welfare vogliamo premiare con incentivi fiscali che vanno ridisegnati, perché rimane quella priorità della delega fiscale assistenziale che viene vissuta nel dibattito come se fosse un altro pianeta rispetto alla riforma delle pensioni. In realtà è collegata strettamente al modello di universalismo selettivo che vogliamo realizzare nel nostro Paese, perché non possiamo permetterci un sistema di incentivazioni, di agevolazioni fiscali che ci consente di avere delle deduzioni quando portiamo il gatto dal veterinario e non, o quando acquistiamo una tavola da surf, e non invece è una riorganizzazione di questa ingente tax expenditure per finalità che vengano vissute come realmente di portata redistributiva. Quindi c'è questo primo punto. Quali istituti come l'istituto pensionistico vogliamo finanziare in parte con un modello contributivo dentro il finanziamento a ripartizione? Perché non ce lo dimentichiamo, stiamo parlando ancora nella discussione di come finanziare il pilastro pubblico del sistema pensionistico con un sistema contributivo che di fatto funziona come una banca virtuale che intesta a ciascun iscritto un conto corrente fruttifero su cui vengono depositati i contributi e poi dopo si prelevano le annualità di pensione e sulle giacenze facciamo maturare un interesse che è stimato e determinato in base alla crescita nominale del PIL. Ma questo non è un pilastro a capitalizzazione reale, che ha dei conti a capitalizzazione reale iscritti a ciascun individuo. Questo è sempre nel pilastro pubblico. Questo significa che la tassazione generale o il pay as you go, cioè il finanziamento a ripartizione, sostiene tutto l'onere del finanziamento del nostro sistema pensionistico, si aggiunge a questo tutta la componente sanitaria, lo sappiamo. Terza componente, quali istituti sono da finanziare con un meccanismo di tipo assicurativo sul lavoro, sulla platea di coloro che lavorano, ad esempio quale sistema di ammortizzatori sociali vogliamo sostenere. Mi pare che questa cornice di riferimento di dove il Paese vuole andare dovrebbe essere il terreno principale di confronto tra l'attuale maggioranza 1 e maggioranza 2, cioè quelle che erano maggioranza e opposizione prima dell'insediamento del governo Monti, e dovrebbe essere almeno un principio di stella polare che ci viene dato dal ministro Fornero e dal premier Monti per sapere dove andiamo a parare col disegno di questi istituti. Questa componente mi pare sia mancata. C'è stata una enfasi corretta sul riequilibrio della durata dell'età lavorativa rispetto alla durata dell'aspettativa di vita, rispetto a degli standard europei. È stato presentato questo come un grande sacrificio per le classi del 51 e del 52 o per coloro che non dovranno avere l'indicizzazione, che potrebbero non avere l'indicizzazione delle pensioni rispetto all'andamento dei prezzi. Mi sarebbe piaciuta una discussione più aperta su quali meccanismi di indicizzazione delle pensioni ci possiamo permettere, perché probabilmente passare da un sistema di indicizzazione delle pensioni basato sull'inflazione a un sistema basato sulla crescita del PIL potrebbe essere, visto che si parla di pay as you go, una soluzione più equa. Ho voluto fare alcuni esempi e mi scuso se li ho fatti in modo un po' disordinato, però questa cornice di riferimento mi pare sia mancata. E invece ha fatto benissimo a farle, io la ringrazio, perché è esattamente questo il nocciolo, non tanto sul merito di questa o quella misura, della critica che muovo anch'io alla manovra, pur restando dell'idea che questo governo era assolutamente necessario, e quindi non cambio idea rispetto a chi dice avete visto, allora il governo precedente aveva perso agibilità e aveva perso due occasioni a luglio ad agosto dopo aver perso anni e non aveva capito la portata della cosa che sarebbe venuta addosso all'Italia, quindi il giudizio resta su quello. Ma non avere un quadro complessivo di interventi, per esempio, lo dico dalla radio di Confindustria, solo mettendo la delega fiscale, cioè la revisione generale di deduzioni e detrazioni del nostro ordinamento, sono oltre 180 miliardi di minore incasso che lo Stato compie per via di centinaia, un paio di centinaia di misure di deduzione e detrazione, solo facendo così, per esempio, si identifica con chiarezza quanta, per esempio, di aiuti alle imprese a fondo perduto e non a seguito di piani industriali che vengono monitorati ci sono davvero nel nostro paese e di quante di quei miliardi si può e si deve fare a meno. Tanto per cominciare, lo dico dalla radio del Confindustria. Secondo, sulle scelte di welfare per la curva demografica, che è un grande problema, secondo me uno dei principali con cui si avrà l'impatto negativo per la crescita del nostro paese, visto che la demografia è una componente essenziale della crescita di ogni sistema. Non avere posto quello al centro, e anche quello si fa con la delega fiscale, e ridursi invece, come si legge oggi in qualcuno dei giornali usciti, a rimettere mano alla nuova ISEE con sgravi per il terzo figlio in poi, con la solita idea che chi fa un emendamentino su questo o quel pezzetto crede di lucrare qualche voto, se non si fa invece con una visione complessiva non serve a niente. Ecco, questi sono solo un paio di esempi aggiuntivi che mi sento di fare rispetto al fatto che una visione complessiva è una riforma destinata innanzitutto a convincere meglio gli italiani e a non far credere loro, come è avvenuto con gli scioperi dei sindacati, che per l'ennesima volta sono sempre solo i lavoratori dipendenti a pagare. Secondo, deve dare una filosofia complessiva di intervento, che è quella mancata negli anni a nostre spalle, quindi in cui dicevamo tagli lineari. E in assenza di tutto quello, in assenza di dismissioni pubbliche, in assenza di un riequilibrio organico del prelievo per tipi di imposte e per tipo di cespiti, è ovvio che rientriamo in questa dannata spirale che è quella delle manovre greche, per capirci. Le manovre greche ci portano a sbattere, perché contraggono il PIL senza una visione, ci fanno perdere consenso, fanno scendere la gente nelle piazze ed è un metodo di fronte al quale proprio un governo di emergenza dovrebbe ragionare più e meglio e più rapidamente del governo politico che lo ha preceduto. Questa è la mia stessa idea, sono completamente d'accordo con Pamolli, pubblicità. Eccoci qui per la seconda parte della rassegna di Oscar di oggi, martedì 13 di dicembre. Ci hanno raggiunto, come vi avevo preannunciato, i nostri ospiti politici con cui approfondire la questione degli emendamenti di cui siamo in attesa per questa mattina ai due pilastri della manovra, cioè le pensioni e l'IMU, l'ICI, che ritorna anche sulla prima casa. E sono con noi quindi Tiziano Treu, vicepresidente della Commissione Lavoro e Previdenza Sociale del Senato per il PD, scusatemi. Buongiorno senatore Treu. Buongiorno. E Gianno Cazzola, che è vicepresidente della Commissione Lavoro alla Camera per il PDL. Buongiorno Cazzola. Buongiorno a lei. Allora Treu, ieri lei in un intervento sul sussidiario.net aveva detto: secondo me senza anzianità e quote si può abbattere lo scalone tutelando meglio i lavoratori che si trovano da un momento all'altro di fronte alla manovra a vedersi di molto allungati i tempi che avevano invece maturato per il trattamento previdenziale, e ripristinando anche sotto i 66 anni, nell'ottica del sistema pienamente contributivo che lei appoggia, la possibilità di andare con un po' di disincentivo, ma comunque di continuare ad andare in pensione mentre la manovra lo proibisce, e dice: e tutto quello che si fa di minori saldi io dico che si può prendere dalle pensioni innanzitutto più alte invece che da quelle medie e basse, dai grandi patrimoni, dai capitali scudati. Ho capito bene? Sì, non c'è dubbio che l'andata a regime di questo sistema proposto da Monti va bene, ma come sempre nelle riforme si fa, soprattutto quando incidono su milioni di persone, ci vuole un po' di gradualità. I modi per introdurre questa gradualità sono diversi. Io ne ho proposto uno: insomma, invece di passare subito da 62, 72 e mezzo a 66, si fanno 2-3 anni di transizione, che è una cosa assolutamente normale, fatta da tutti i paesi. E appunto quello che costa di più nell'immediato, perché poi a regime la struttura è salva, quello che costa di più nell'immediato si recupera da qualche altra parte. Oltre ai titoli che lei ha ricordato, ci sono anche le famose frequenze, ci sono, si potrebbe fare con valore simbolico un bel taglio ai trasferimenti alle camere, dato che se ne parla molto, sì, non è che porta tanti soldi, ma ha un significato simbolico. Quindi questa è l'osservazione che io faccio, che facciamo in molti. Possiamo intanto Cazzola dire che pensa di questa richiesta di più gradualità con recupero da altre parti avanzata da Treu? Cazzola? Ti sente? Di maggiore gradualità, però io non sono tanto preoccupato del disincentivo per il pensionamento dei 41-42 anni, quanto invece trovo singolare questa abolizione delle quote, che secondo me era un sistema tutto sommato più equo, perché comunque, a differenza dell'uscita con 40 anni a prescindere dall'età, aveva un requisito anagrafico, che il problema non è con quanto si va in pensione, il problema è quando, a che età si va in pensione. Quindi il sistema delle quote consentiva andare in pensione da almeno 60 e 61 anni, cosa che il sistema dei 40 anni non aveva. Per cui io oggi ho visto i giornali che parlano di quota 103 fino al 2018, e credo che questa ipotesi, pur essendo severa, possa essere convincente, avere un periodo di transizione che ripristini la logica delle quote, fermo restando il meccanismo del disincentivo per il pensionamento con i 41-42 anni, che invece vedo che è la preoccupazione principale che hanno settori del popolo del Partito Democratico. E quanto alla alla compensazione, io credo che sia giusto cercare la compensazione all'interno del sistema pensionistico. La Commissione Lavoro, nel parere di cui sono stato relatore della Camera, ha indicato due interventi: uno sulle pensioni più elevate, introducendo un livello intermedio fra 90 e 150 mila di 120 mila euro e rimodulando di conseguenza anche le penalità, in buona sostanza, no? E scendendosi nel caso anche al di sotto dei 90.000 euro che sono il primo livello di pensioni penalizzate dalla, dalla legge di Berlusconi, dal decreto di agosto di Berlusconi. Poi abbiamo indicato anche, vedo che di questo non se ne parla, ma a me sembra una misura interessante, la possibilità di mettere un contributo di solidarietà sulle baby pensioni, quelle cioè di persone che sono andate in pensione al momento appunto in cui ci sono andate, con meno di 50 anni e meno di 25 anni di contributi. Mettere un contributo di solidarietà sul differenziale tra l'importo della pensione e l'importo della pensione minima. Mi pare che anche questa sia una misura equa, in quanto consente a persone che sono da decenni in pensione e che ci staranno ancora decenni di dare un contributo al sistema. Da questo punto di vista che dice Treu? Sì, ma io, come dicevo prima, ho segnalato il problema, ho indicato la necessità di gradualità e queste soluzioni sono possibili. Le quote anch'io penso che possa essere uno dei sistemi di gradualità equi. Mi pare che sono due gli aspetti diversi. Uno, questi lavoratori precoci che hanno 40-41 anni di contribuzione, che magari sono distanti dalla età limite, e lì si può utilizzare qualche disincentivo. In realtà sono nuclei abbastanza ristretti di lavoratori, sono un po' quelli che vengono dal passato più numerosi, quindi anche per me è importante invece affrontare questo gruppo, questi gruppi di lavoratori che dovrebbero passare da 62, 63 fino a 66 immediatamente. Quello che ha detto Cazzola è uno strumento utile, mi auguro che uno di questi venga accolto e che poi alla fine si compensi in parte all'interno del sistema, in parte fuori, come hanno fatto, si è fatto quasi sempre nei momenti in cui, avendo affrontato una riforma, si è dovuto gestire il periodo transitorio. Posso chiedere prima a Treu e poi a Cazzola, in questi primi giorni di lavoro parlamentare sulla manovra, l'impressione che hanno avuto del tipo di rapporto per parlamentari come voi, che conoscete benissimo la materia, ci hanno lavorato continuativamente per anni nelle proprie formazioni politiche con responsabilità di governo, il tipo di rapporto che avete con tecnico, con i componenti del governo, col ministro, con il sottosegretario e così via, vi rende ragionevolmente ottimisti sulla possibilità che alcune delle vostre osservazioni molto ragionevoli vengano a essere introdotte oppure no? Treu, che dice? Sì, grazie, perché poi io vi devo lasciare. Ma io ho avuto meno contatti di quanto non abbia avuto Cazzola, perché ha cominciato l'esame con la Camera. Però in realtà è venuto il ministro da noi, noi abbiamo avuto qualche scambio, ma io credo che tutti i nostri interlocutori sono esperti, la ministra è espertissima di pensioni e quelli che stanno dietro, poi in cucina, dal ministro Giarda a quelli responsabili della ragioneria, sono super esperti, perché molti di questi hanno seguito anche le riforme da vicino, le riforme degli anni passati, quindi credo che siano assolutamente degli interlocutori tecnicamente attrezzati. Certo, c'è poi questo condizionamento feroce, soprattutto nell'immediato, dei saldi e del far cassa subito. Io sono un po' pessimista. Soprattutto in prospettiva, perché passato questa tagliola forse si può ragionare con un po' più di prospettiva. Va bene, io ringrazio tanto Treu che ci deve lasciare, faccio la stessa domanda a Cazzola. Io invece purtroppo ho un altro timore, ho il timore che la tagliola non passa dopo la manovra, perché i mercati continueranno a mordere, e quello che invece secondo me fa un po' difetto è la riflessione complessiva sulla manovra. Io avrei preferito cominciare dalla delega fiscale, pensi un po' Cazzola, per capire bene quali tipi di sistema finanziamo, in che modo, e quali altri invece ci possiamo mettere alle spalle, invece che per l'ennesima volta ridurci a micro emendamenti sui colpiti di ogni singolo provvedimento. Ma evidentemente sono io che sbaglio. Lei che impressione ha invece del rapporto tecnico con chi è la manovra? Il rapporto c'è, perché tra l'altro è un rapporto di posso dire anche di amicizia, insomma di collaborazione che dura da decenni con il ministro Fornero. L'impressione, quindi insomma ci siamo sentiti diverse volte, è venuto in commissione, adesso stamattina alle 10:30 ritorna. Io ho l'impressione comunque che i margini siano molto ristretti e che la parte del leone la faccia l'economia, come sempre. e per interposta persona la faccia al ministro Giarda, che ho l'impressione che sia il vero vice ministro dell'economia per quanto riguarda le manovre finanziarie sul piano interno. Posso, aspetti, noi dobbiamo andare a fare il minuto sul traffico, poi tornerei con lei facendo una domanda, ma non è che continuiamo a sbagliare, continuiamo a far comandare troppo la ragioneria senza cambiarla? Perché io temo che il peso della ragioneria, lo dico con grande rispetto per la ragioneria generale e chi ci lavora, nelle manovre di questi anni sia stato preminente, e ci vedo lo stesso segno in questa cosa che invece di partire dal disegno generale si fa incalzare dalla necessità dei saldi. I saldi io sono il primo che li vuole tutelare, ma a furia di non avere un disegno generale equilibrato, qui stiamo parlando di welfare, stiamo parlando di pensioni, stiamo parlando di peso tra questa e quell'imposta, tra reddito e patrimonio, stiamo parlando di cose delicate, andando per pezzettini con i saldi non si fa, non si rimette in piedi un paese come questo, noi cadiamo nel loop greco. Può essere che mi sbagli, voglio sapere come la pensa Cazzola su questo. Ora strada 3 riparte come sempre in tutta la conclusione di Disneyland dei Doors, tanto iniziano i primi particolari degli emendamenti depositati e siccome ci seguono molti tassisti esclusi i taxi dalla liberalizzazione, quindi amici tassisti potete tirare un sospiro di sollievo. Avevo fatto una domanda a Cazzola, nel frattempo stavo leggendo l'agenzia, la Troica Europea, che oggi è di nuovo in Grecia, vi ho detto perché, perché la Grecia non ce la fa a mantenere gli obiettivi, ha chiesto altri 150.000 licenziamenti dei dipendenti pubblici greci, e così arriveremo a quota 600.000 in un anno, cioè la decisione riguarda 600.000 lavoratori, se ce ne aggiungiamo 150.000 per i prossimi 3 anni, che più o meno sul totale, se facciamo il paragone tra economia greca e Italia, è come se sul totale dei 3.8 milioni di dipendenti pubblici italiani avessimo assunto provvedimenti per metterli fuori pianta organica più o meno un milione di quei 3.8 milioni, tanto per darvi l'idea dell'impatto sull'economia greca di quello che sta succedendo da un anno a questa parte. Allora Cazzola, non è che sbagliamo un pochino a pensare che la ragioneria incalza e non prendiamo mai in mano queste misure nel disegno complessivo di riforma? Guardi, io a luglio del 2008, appena diventato deputato, ho messo a frutto il sapere maturato in 25 anni di lavoro sulle pensioni, ho presentato un disegno di legge alla Camera 1299 dove c'era dentro tutto: il sistema contributivo pro rata, il pensionamento flessibile, l'opt-in out per la previdenza complementare, tutte cose che ci trovano adesso nella riforma Fornero, completamente ignorata dal governo di allora, che poi si è ridotto sostanzialmente a introdurre delle misure sulle pensioni di volta in volta in una chiave appunto della ragioneria generale dello Stato, insomma di trovare delle risorse per fare cassa, mentre ad affrontare il disegno all'inizio con un progetto organico si sarebbero potuto trovare anche delle compensazioni, passare da un vecchio welfare a un nuovo welfare. E questo è vero, noi siamo stati sempre sopraffatti dall'emergenza economica, dall'esigenza di far quadrare i conti, e quando abbiamo provato di mettere in cantiere una riforma fiscale abbiamo dovuto garantirla con 20 miliardi di risparmi. Questi sono errori però che secondo me se continuiamo a commettere, devo dire, ci portano a fondo. In più negli emendamenti un limite al fatto che bastava dire una cosa alla Guardia di Finanza che poi si rivelasse sbagliata ed era reato penale, e qui Gattaccio ride perché io sono un vecchio liberale e non mi piace per niente questa norma che invece tutti inneggiavano nei giorni precedenti. Niente, i due relatori hanno detto che resta reato penale solo produrre documenti falsi all'Agenzia delle Entrate, non parole alla Guardia di Finanza, e mi è dispiaciuto vedere inneggiare tanta gente a questa roba che significa rinuncia della libertà. Torneremo a parlarne perché anche su il pieno accesso ai conti bancari probabilmente l'emendamento restringerà un po' le maglie, e io dico che è cosa benedetta perché dallo Stato io voglio dare quel po' di libertà, quel po' di libertà in cambio della difesa della mia. Intanto si torna al Giornale Radio e appuntamento a domani. 9 in punto.